gavin ni ko everybody doka afani so wari gavin ni oni moka barag vini oli gore mali si chichi a woli get body bali goody five mickey wow baby girl fucky when he got it go I rebi doki ne fino kani bedi do I like it rocky body gavin nani daddy go I rebi le po po gari bani negi do io non capisco un cazzo di quello che dici tu, ma c'è sentimento in tutto il tuo testo. Io non capisco un cazzo di quello che dici tu, ma non me ne importa di tutto il resto, no. What creation, only Gary, only gay, talk by funny nation. And every only Kelly, all by the movie action. And every Kenny, daddy, curry, funny guy, population, money, oh. Fucking only Gary, only Gary, Nibby, Dosha. I like Gary, Nepho, all be ready, Dosha. I like Gary, Nicky, body, a very nature. Nigga, body, body, gunny, a meditation. I want it funny, no. I want a Gary, Nibby, no, money, daddy, go. I want it funny, say, oh, Larry, oh, oh. Oh, Larry, oh, oh. Io non capisco un cazzo di quello che dici tu, ma c'è sentimento in tutto il tuo testo. Io non capisco un cazzo di quello che dici tu, ma non me ne importa di tutto il resto, no. Wally Blook, alle book and it go. Agony Cluck, alle Gabriel on it go. Fix look, all the funk and the runny giving runny giving no be TV no be reggae bo oh fuck it baby a reggae buddy all the funk and buggy reggae a buddy giving runny keep top fini dixie a buddy giving no be rock pop bo oh big big pixie over oh, grill a buggy poly go be nicky fini walk my go reggae belly call all the urban door up and a rabbi load oh oh with it funny I be runny Gary on it door. Io non capisco un cazzo di quello che dici tu, ma c'è sentimento in tutto il tuo testo. Io non capisco un cazzo di quello che dici tu, ma non me ne importa di tutto il resto, no. Oh Larry, oh oh, oh Larry, oh oh, I didn't get